Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì Marco, siamo passati a David Guetta, finale di Fabrizio, ad altre cose, un po' distante da David Guetta. Sono un po' ancora sotto shock. Comunque. Anch'io, siamo i due sotto shock. Benissimo, puntata straordinaria, siamo anche di martedì, io sarò anche domani, mercoledì, ci sarò anche giovedì qua dentro, ci sono sempre praticamente le cose impossibili. E abbiamo, presentiamo un artista che... Buonasera innanzitutto. Buonasera. Come stai, bene? Benissimo, grazie. Tu abiti a Londra, però sei napoletana d'origine. Beh, io sono nata vicino Benevento, e però dopo tre giorni mi hanno portato via, quindi ho ben poco di napoletano. Quindi sei andata subito là. Sì. E il tuo nome? Metelia. Metelia, benissimo. Hai quattro album all'attivo, o sbaglio? Quattro con Bloody Mask, poi ne ho anche altri all'attivo. Cioè Bloody Mask è un tuo progetto, però anche progetto, hai fatto progetto con una band, progetto da solista? Sì. Ok, e sei partita dal punk? Sì, quando avevo 12 anni, perché iniziai suonando il basso con una band punk di Coventry con cui avevo un po' sperimentato delle cose un pochino estreme, anche molto terra-terra, perché volendo tecnicamente non c'era un granché. Però era divertente, erano le prime esperienze musicali, le prime scoperte, i primi concerti, lì. Insomma sì, ho iniziato col punk. Però hai detto, ma tutti qua volevano fare del pop, ma io del pop niente da fare. No, assolutamente. Perché no. In Inghilterra volevano fare tutti il pop? Perché entrava in classifica? Perché era facile? Ma anche in Italia un po' c'era questa sì, cosa del pop. Sex Pistols, Clash, c'è gente di un grandissimo... Stranglers. Ancora io meglio, adoravo ancora gli Stranglers. Eccolo. Ho appena comprato una raccolta con tutti quanti i singoli degli Stranglers, che è una cosa che io credo che... Bisogna tornare indietro col tempo, non ce n'è per nessuno. Delizia, veramente anche perché delizia. Hanno tanto quotato i Sex Pistols, che erano, parliamoci chiaro, dei cani musicalmente, sì, sì. Però gli Stranglers, che erano veramente dei musicisti provetti, erano molto più veramente nascosti. Bravi, certo. Infatti, secondo me, hanno avuto successo, ma qui in Italia li hanno un po' sottovalutati. Però nel 2010 ascoltare ancora adesso i singoli degli Stranglers lo consiglio a molte persone. Anche perché vendono, c'è un cofanetto con 3 CD a un prezzo molto molto competitivo, quindi non scaricatelo da internet. Sono tutti i singoli proprio dei loro primi anni, quindi parliamo proprio dischi. Sì, i primi dischi, perché poi dopo non c'è stato Cornwell, non ha più cantato con gli Stranglers. Ho avuto modo di ascoltare un loro album di 3-4 anni fa. La musica è sempre loro, perché veramente sono tra il bassista che era fuori di testa e il tastierista, però insomma, grandi gli Stranglers, veramente una grande band. Ma il disco di recente, quello che è uscito da pochissimo tempo, 2 anni fa, è un grande disco? Sì, infatti, perché secondo me c'erano, oltre a Cornwell che aveva un modo suo, c'erano dei grandi strumentisti, ripeto, un po' fuori, ma erano veramente dei grandi. Quindi gli Stranger, e poi come punto di riferimento punk chi c'era, secondo te, all'epoca, che ti possono interessare? Damned. Anche quelli? Anche loro. Avevano, mi piacevano moltissimo, una carica d'olio pazzesca. Li hai visti? No, purtroppo no, ero piccino, ero un cucciolo piccolo all'epoca, quindi non... Sì, ma sono tornati, però anche i Damned mi sembra che abbiano fatto qualcosa di recente, qualche anno fa, sono tornati un po' sulle scene. Però non è più la stessa purtroppo manca un po' la cosa. Però. Quindi il punk con qualche conflitto con il pop e poi una tua autonoma via, chiaramente. Bella. Sei sviluppata musicalmente parlando, sei sviluppata in tanti settori, in tanti vicoli, in tante direzioni. Lì ha preso un po' il sopravvento la musica classica. Ecco, perché... la musica classica, un po', io sentendo il disco nuovo, il disco che abbiamo qui davanti, un po' Satie, l'impressionismo, come mai? L'influenza classica l'ho avuta perché studiavo da piccolina danza classica. Poi avevo comunque mia nonna che era cantante lirica, e poi c'è stata comunque la passione del canto, ho avuto degli insegnanti molto validi, molto che mi hanno instradato bene, e quindi la mia... cultura musicale si è puntata prettamente sulla danza classica, e poi dall'altro lato c'era mio zio che mi portava i dischi di musica sperimentale con i Pink Floyd degli anni 70, con appunto il punk, con... c'è stato un po' gli estremi che alla fine si sono toccati un po'. A proposito di musica classica e cantante lirica, qui abbiamo Annuccio, che ringrazio vivamente di aver consentito, di materialmente ha portato l'artista qua in studio, e anche Nino che è da parte, ecco qua vicino. Lei parlava di cantante lirica, c'era un gruppo trevigiano, Sperimentazione Lirica, te lo ricordi? Esatto, gli Opus Avanti. Novella del Monaco. Donatella del Monaco. Donatella, che era la figlia di Mario del Monaco. Donella del Monaco. Siamo proprio Donella del Monaco. Donella era Alfredo di Sotto. Esattamente. Esattamente. Quindi a me ricorda, quando ho sentito il tuo disco, non l'ho scritto nella presentazione, mi è venuto in mente quello, gli Opus Avantra. Era forse l'unica. Dai il microfono anche a Vannuccio, che è molto interessante, sì, il discorso con gli Opus Avantra. Eccolo. Ti dico il numero 3, Marco. Beh sì, sicuramente ascoltando, ovviamente, Maet non penso abbia conosciuto gli Opus Avantra. Purtroppo no, e me ne pento. Eri molto giovane all'epoca e anche forse non hanno mai in qualche maniera conquistato poi questa fama, di popolarità, una popolarità diciamo estrema, sono più conosciuti proprio per la sperimentazione che facevano. Mm-hmm. Donella del Monaco sicuramente era una cantante che poteva permettersi di cantare Schoenberg e qualsiasi cosa fosse possibile, e il connubio con appunto Alfredo Ciocco, pianista, raffinatissimo pianista decisamente, e loro riuscivano a combinare questa situazione classica, prettamente classica, ma comunque anche veramente sperimentale. Erano i momenti, sai, dove si ascoltava moltissimo John Cage, Berio, si ascoltavano questi nuovi musicisti che uscivano, poi Venezia, patria appunto di Donella del Monaco, era ovviamente una fucina con la Biennale Musica, forse all'epoca la migliore esposizione per la musica. Il discorso che ha fatto Vannuccio è un discorso giusto, perché Opus Avantra, quindi lo sperimentalismo progressive italiano, è stato l'unico gruppo che c'era una cantante lirica, tra virgolette. C'erano anche i St. Just, che era il gruppo di Alan Sorrenti, della sorella di Alan Sorrenti, della Jane Sorrenti, e anche quella sperimentava come te. Uh-huh. Molto estremista come sperimentazione. Sì, aggiungo un altro gruppo che lo fece pure nei Pierrot Lumière. Esattamente. Che di Gaio Chiocchio e Arturo Stati, dove c'era una cantante, tra l'altro inglese in questo caso, trapiantata in Italia, che era Jacqueline Darby. E fu un esperimento particolarmente ben riuscito anche Pierrot Lumière. Quindi, mi state proprio deliziando, sono curiosa. Quindi posso dire, giustamente parlavamo con Marco, leggermente più dark il tuo esperimento rispetto ai Pierrot Lumière o gli Opus Avantra, però l'ambientazione lirica, cioè il modo di estrapolare, di andare oltre le righe, c'erano anche per loro. Quindi bene. Tu eri in Inghilterra, loro erano in Italia, chiaramente loro prima di te, però il progressive italiano è nato anche da quelle cose. Ma il prog italiano è delizia. Cosa si pensava, tu che vivi in Inghilterra, cosa si pensa del prog italiano ancora adesso in Inghilterra? Beh, se un po' più se c'è qualcosa. È più per i cultori però, sì. Perché purtroppo non è che sia pubblicizzato, gruppi tipo PFM per esempio non è che si conoscano tanto all'estero, ed è un peccato mortale perché molto sono meravigliosi. Sì. Moltissimo in Giappone. Sì, ma sono delizie totali, secondo me non avevano niente da invidiare ad altre band per esempio inglesi, che sono comunque state molto quotate. Forse è stata più una questione di chi è stato pubblicizzato di più. Ho capito. Perché a livello di bravura, io quando ancora vedo dei video su YouTube per esempio dei PFM, vengono le lacrime, bellissime. E cito sempre loro perché sono i maggiori secondo me, almeno per i miei gusti. Poi vabbè, io ascoltavo anche Battisti nel periodo prog sperimentale, e quando ero neanche nata. E poi c'erano anche Battiato si è dato molto al prog sperimentale degli anni 70, questi sono i miei amori. Marco parlava, citava i Sister of Mercy, che parallelismo ci sono con i Sister of Mercy? Non lo so, non perché lo non ci ho mai pensato, mi ha un po' colta la sprovvista lui quando mi ha detto così, però mi ha fatto piacere perché sono tre gruppi che ho ascoltato molto. Credo che sia l'atmosfera della tua musica che riporta un po' a quell'epoca, che secondo me è l'epoca. Io sono nato musicalmente nella metà degli anni 70, quindi anch'io ho cominciato ad ascoltare il punk. In realtà sono partito dall'elettronica, infatti ricordo Battiato elettronico, che a me piace molto. E quindi quelle atmosfere, si parla di fine anni 70, primi anni 80, le ho ancora molto in testa. E ascoltando il tuo disco mi ha dato, casualmente stavo ascoltando in quel System of Mercy, il primo album, e quindi ho trovato questo parallelismo tra le due cose. Manuccio, Marco ha citato Battiato, non so se sei d'accordo, mi sei le Gladiator per un parallelismo con lei. Molto probabilmente Sì, qualcosa, sì, qualcosa si coglie, nel senso che, per esempio, l'utilizzo soprattutto della strumentazione elettronica del suo disco. Mm. Ricorda come Battiato lavorava. Mm. Lavorava all'epoca. Sì, direi anche qualche arrangiamento. Per esempio, tu citavi Satie, Maurizio, ed effettivamente del minimalismo. Cioè, è minimalismo, sì. Minimalismo questo, si sente. E sai cosa mi ha colpito molto nel disco? Io l'ho, tra virgolette, grazie a Maestro, l'ho avuto in anteprima, quindi potevo anche studiarlo abbastanza bene. Loro hanno fatto una grossissima ricerca sull'arrangiamento. Loro sono riusciti a scremare, perché lei dopo, alla fin fine, uno può dire: ma sì, è la solita musica gotica, si sente. A parte tutti pensano al gotico come agli Evanescence, ma siamo da tutt'altra parte del globo. Lei è riuscita a scremare la parte forse più pacchiana del gotico, quindi ha lasciato quell'essenziale che deve essere poi l'emozione, il subconscio della musica. Ecco, lei scatena il subconscio. Tu hai citato il gotico, io e Marco, io personalmente, non so se Marco sei d'accordo, del gotico tra virgolette, non so se lo conosci, Paul Roland lo conosci? Più di nome che di fatto. Più di nome. Sinceramente. Non possiamo fare nessun parallelismo, Marco. Più di nome che di fatto, purtroppo, mio malgrado. È un grandissimo, non è che sia gotico, il gotico non esiste. Cioè, no, non esiste, infatti. È solo una definizione per i giornalisti critici, chiaramente chi deve scrivere deve dare una definizione, però Paul Roland, le atmosfere particolari un po' cupe, tenebrose di Paul Roland non è che si avvicinano a te, però determinati arrangiamenti sì, soprattutto nell'uso di certe sonorità chitarristiche sì, li vedo così alla Paul Roland. Ma Valeria, non abbiamo tempo fino a mezzanotte. Ah sì, non scappo. Benissimo. Cominciamo a sentire un pezzo, Marco, cosa dici? Sì, direi di sì. Esattamente. So che mi hai già sì, procurato la scaletta. E allora il brano che andiamo ad ascoltare adesso si chiama Plafond. Che lo trovo meraviglioso. Ci fermiamo un secondo e me lo spieghi, perché io l'ho sentito Laurie Anderson. Sì, moltissimo Laurie Anderson. Laurie Anderson, conosciamo, è un'artista straordinaria, fa un po' di tutto. La compagna di Lou Reed musicalmente ha dato una spinta anche Lou Reed in certi dischi. Io ho sentito, non so se canta in francese Laurie Anderson, questo non lo so. Non mi risulta, ma potrei sbagliare. Tu hai cantato in francese e mi dà quell'atmosfera là, particolare, alla Laurie Anderson. E mi è piaciuto moltissimo il pezzo. Proprio a una certa ora dà una certa atmosfera. E adesso va benissimo, sono le 11:15. Tutto in diretta, tutto live, Rock Wave, vai! Montre ce que j'y vois au-delà. Plafond, montre ce que j'y vois au-delà. Plafond, montre ce que j'y vois au-delà. Plafond, montre ce que j'y vois au-delà. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco Marco, questo incastro di voci potrebbe ricordarsi qualcosa di System of a Down, perché no? Ma mi è venuto in mente anche un altro nome, perché dì, ascoltandolo adesso devo dire che mi fa un po' anche Japan. Ah, è vero, hai ragione, hai ragione. Japan, non ci avevo Japan, pensato. Un po' sì, come questa atmosfera. Sono molto d'accordo, ma semplicemente perché Silvian e Sochi sono sempre stati il mio gruppo preferito in assoluto. Mm. Quindi, sai cosa Marco? Forse può darsi l'idea di qualche sfumatura, qualche eco, eccetera. Effettivamente i Japan avevano poi di sottofondo una ritmica molto più essenziale, Mick Arn al basso, Steve Jansen alla batteria, quindi avevano una diversa anche concezione musicale. Loro erano veramente pentatonali, Might non lo è. Riuscita a fare, secondo me, anche un salto di qualità da quel punto di vista, proprio utilizzando le voci che sono state messe in intervalli di terza, in intervalli di quinta. Ogni tanto si sente sotto ed è voluta, ma qualche piccola stonatura incastrata al punto giusto. Per i profani, adesso vi dico sono gli intervalli di terza e di quinta, perché noi non siamo tutti addentro al sistema, Might sì, ma noi no. Allora, per spiegarli semplicemente, prendiamo un accordo musicale, sì. Un accordo musicale di base, il Do maggiore. Allora, un accordo è fatto da tre note. Queste tre note come si distinguono fra di loro? Allora, con un intervallo di terza, appunto, e un intervallo di quinta. Nel caso del Do maggiore, l'intervallo di terza è dal Do, che è la fondamentale, un tono e mezzo più alto, quindi si va al Do, facciamolo bene, dai, Do, un tono, Re, mezzo tono abbiamo in Mi, dopodiché abbiamo un altro intervallo, andiamo alla quinta, quindi due toni, e andiamo in Sol, quindi un accordo sarà fatto da Do, Mi, Sol, okay. Questi sono gli intervalli, ecco. Sono anche la maniera di armonizzare le voci, di solito quando noi sentiamo dei cori, qualcosa, sono intersecati in questo modo. Ecco, Might, con l'aiuto della tecnica, ma soprattutto con la sua capacità di tenere la voce, riesce a farlo benissimo e lo fa tutto da solo. Ecco Might, io ti prendo la recensione, anche Vannuccio è stato d'accordo, di Amanda Gallas mi ricordavo in alcuni momenti, la conosci di Amanda Gallas? Sì, beh. La conosci sicuramente. Sì. Per il modo di cantare, di allargare e poi restringere, allargare e restringere. Non so se sei d'accordo, io l'ho sentita così. Ti dico una cosa, tutte quelle cose che scopriamo lentamente sentendo il disco, chiaramente. Io penso che la musica sia un pochino come anche l'architettura nella storia, nel senso che tu una volta non c'erano gli aerei, non c'erano i mezzi di trasporto, però ti trovi paesi come appunto come l'Egitto, che hanno, dove trovi le piramidi, e allo stesso tempo trovi le piramidi in tutt'altra parte del mondo, nello stesso periodo, eccetera. Non è una questione che uno pensi a un altro artista o un'altra piramide, ma è un parallelo. Evidentemente c'è una fonte comune dalla quale tutti noi attingiamo quando abbiamo delle idee o impostando le cose. Quindi anche se tu non ti concentri sul voler tirare fuori una canzone su determinati parametri, ti esce fuori in quel modo, e penso che sia più una casualità o forse un qualcosa che ci abbia guidati tutti insieme un po', ecco, come il parallelo delle piramidi, che sia accaduto con Diamanda Galas o con altri artisti, perché in definitiva non è che io mi sia messa a tavolino a pensare adesso faccio un disco come Diamanda Galas, pensato, però ci può essere un richiamo, perché evidentemente lei magari potrebbe aver avuto degli artisti che l'hanno ispirata come hanno ispirato me, o magari abbia avuto degli artisti. Quali sono i tuoi artisti fonti di ispirazione? Io adoro terribilmente Roger Waters, soprattutto con i Pink Floyd nel periodo in cui c'era lui. Adoro Peter Gabriel, adoro Franco Battiato e Jethro Tull. Questi sono, diciamo, i miei più... I tuoi cinque dischi da portare su un'isola deserta? Mio amore, vai, Dark Side of the Moon. E come mai Dark Side? No, se no io e Marco... il periodo con Syd Barrett, perché no? Il periodo con Syd Barrett. Adoro anche Syd Barrett, però ero più vicina a Waters. quando le canzoni di Waters mi hanno sempre fatto piangere, mi hanno sempre fatto tirato fuori qualcosa da dentro. E invece Syd Barrett mi piaceva tantissimo, la sua psichedelia, la sua, il suo estro, però era più secondo me lui navigava sul suo io, invece Waters andava dritto sott'acqua. Quello mi piaceva, il coinvolgimento che riusciva a darmi e tuttora riesce a darmi anche con i suoi progetti. Come mai c'è trattato quindi Anderson? Musicalmente, perché... o perché lui è un funambolico, un istrione? Ma non è solo la tecnica, è proprio quello che mi trasmettono. Hanno delle canzoni che sono troppo belle, sono un viaggio, sono un... E se chiudi gli occhi e ascolti di Jethro Tull vedi delle cose, dei sogni, vedi dei folletti, vedi delle... Non so, vedo un mondo completamente diverso, completamente colorato, come se fossero gli album dei bambini, mi ricordano. Tu hai citato Jethro Tull, e allora arriva il discorso del folk qua. Sì. Mi dici, Manu? Folk prog. Sicuramente, ma sai come giustamente diceva, sempre un problema dire da quali radici poi uno ricava la propria musica. Poi tieni conto che qualsiasi esperienza noi facciamo musicale poi dobbiamo in qualche maniera ritrasmetterla da un certo punto di vista e dopo averla filtrata con il nostro talento. Ecco, chiamiamo questa splendida parola talento, che è così difficile da definire, da giudicare. Per cui do ragione a Maed quando dice: io tutto sommato ho tutto un mio bagaglio di cultura che in qualche maniera riesco a filtrare e riesco poi a mettere nella musica che faccio io. Sicuramente si sente tutto, cioè volendo spulciare alla fin fine c'è tutto, c'è tutto e niente. Forse magari mancherà qualche canzone trash italiana. Però voglio dire, qual è la canzone trash italiana? Qualcosa di Raffaella Carrà. Ah, okay. Ma probabilmente non la sentiremo presente nella sua musica, con tutto il valore che giustamente ha la Raffaella nazionale. Che ha fatto una cover di Moby Grape, lo sapevi? Ma figurati. Sì, ha fatto una cover di Moby Grape. Ora cado dal pino, non lo sapevo. Sì, una cover di Moby Grape. Marco lo sa, ma è così. C'è su YouTube. Non lo so se io ce l'ho a casa, un disco della Carrà. Comprà esclusivamente perché c'era ancora di Moby Grape. Vuoi mettere? La voglio assolutamente ascoltare. Ma la Carrà si sentiva in Inghilterra? No. Che io sappia, no. Peccato, perché io l'ho trovata sempre molto brillante. Come artista era brava, sì. Dipendentemente da quello che faceva. Ma come artista era... Però lo faceva bene. Completissima, in artista. Certo, veramente. Indubbiamente, ecco, poi sì. Può essere discutibile il gusto musicale, ma... ma è un'icona. Sì. Assolutamente. Però... Tornando invece alle nostre cose più simpatiche, un po' di gossip, effettivamente poi è difficile dire, giustamente, ma ha uno spirito folcloristico nell'esposizione, molto probabilmente, forse più che nell'esecuzione. Questo è vero. Ecco, ma folk cosa vuol dire? Vuol dire trasmettere, lei lo fa benissimo. Benissimo. Io volevo sapere, come musicalmente... Com'è stata la... Chi ha suonato in plafond? Io. Solo te? Sì. Esclusivamente? Sì. Cioè, tu hai fatto proprio tutto te? Eh sì. Oh, perfetto. Con il tecnico. E diciamo che se potessi crescere un pochino i tentacoli, perché sarebbe un po' più facile stare lì. Ah, ho capito. Anche perché dal vivo devo appunto avvalermi anche di altri musicisti. Perché il progetto, come si sviluppa dal vivo? Adesso possiamo parlare, fare un concerto nei prossimi giorni. Dove lo farai il concerto? Beh, ci vedremo con Uno TV, con faremo appunto un po' di pezzi dal vivo, un pochino di... E come li costruisci? Musica. Come li fai dal vivo? Pezzi. Dal vivo li faccio con dei musicisti meravigliosi, stupendi, che fanno la mia vita ancora più bella di quella che già è. E sono uno è Diego Banchero, che molti di voi conosceranno tra Malombra e Il Segno del Comando. Sì, esatto. Che è un musicista di un talento infinito, è un amico anche grandissimo. E poi ci sono... Fernando, che è il batterista, e Roberto, che è il chitarrista. Quindi abbiamo rifatto in chiave acustica quello che Bleeding Mask fa, tutto in elettronico. Quindi non ci saranno i cori, perché io non uso basi, non uso niente del tutto genere. Da vivo, sì. Non amo mettere effetti o cose che alterino, preferisco più avere il suono nudo e crudo così come dovrebbe essere dal vivo. E quindi dal vivo mi avvalgo appunto di musicisti così, di un bel calibro, che sono deliziosi, li amo con tutto il cuore. Marco, cosa dici? Sentiamo un altro pezzo? Cosa c'è nella scaletta? Se lo sarei davanti a te. Allora, nella scaletta devi mettersi gli occhiali. Sono diventato vecchio, sono diventato vecchio anch'io, purtroppo. Potevi fare a meno di dirlo, Maurizio. Comunque, il brano in scaletta credo che sia The Cell, se non sbaglio. Sì, esattamente, lo sentiamo. È un po' particolare. È come un po' brano, particolare. Sì. Noi di solito, non, di solito in radio si mettono solo i pezzi radiofonici. Noi ce ne siamo sempre fregati altamente. Abbiamo messo sempre tutti i pezzi che ci piaceva mettere, li abbiamo messi. Quindi facciamo andare The Cell. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Colore alle tue frequenze. Ok, ci siamo? Sì, perfetto. Si parlavamo, mentre il microfono andava, cioè il pezzo andava, degli Opus Avantra, perché giustamente Vannuccia adesso ritorna. Io. E questo pezzo ricordava moltissimo Rod Cromwell di Opus Avantra, che è il secondo e il terzo album di questa band trevigiana, qui vicino, ma progress molto interessante. E il modo di cantare della, del Monaco mi ricordava te. Assolutamente te. Così però mi incuriosite. Adesso bisogna che qualcuno mi procuri una copia. Sia del Monaco sia te, sviluppi il discorso pseudolirico in una base non prettamente pregnante, cioè la base in sottofondo e la voce importante in The Cell. Non so se sei d'accordo. È nata così l'idea musicale del pezzo. O no? Qualche attinenza c'ha? Aspetta, no, se ci addentriamo nel discorso come è uscita fuori, allora andiamo da tutta un'altra parte. Sì, ma come l'hai eseguita, come l'hai sviluppata da cantante lirica? Quello sì. Da cantante lirica, sì, ho creato l'intreccio di cori nella base. E hai fatto tutto te? Sì. sempre due perfetto. È tutto registrato con tutte voci, così c'è soltanto appena per un campanellino, proprio sì, tanto appunto, per. Sì, ho sviluppato con, normalmente parto dalle tonalità più basse, creo proprio l'intreccio di accordi nel sottofondo della canzone, e ovviamente mi sono ispirata a quello che il testo dice. Siccome che ogni brano dei Cinque Mostri, The Five Monsters, è un capitolo di un racconto che ho scritto, che adesso sta uscendo anche in teatro, e in questo brano in pratica si parla di questo, è il condannato a morte che è nella cella e immagina questa voce che parla per lui, e quindi inizia con il canto degli uccellini, che anche quello è fatto con la voce tra l'altro, e c'è lui che sente questo la mattina, gli uccellini dalla finestra, ed inizia appunto con le tonalità molto chiare, molto con una scala maggiore, proprio perché dà l'idea del sole che splende, dell'aria fresca fuori dalla finestra. Però lui a un certo punto si rende conto che comunque è chiuso della cella, quindi comincia a chiedersi: ma sarò ancora così calmo come mi sento questa mattina? E piano piano anche il brano diventa sempre più cupo, perché man mano che il sole cala iniziano a calare anche le tenebre e la sua paura comincia a prendere il sopravvento. Quindi per quello inizia con delle tonalità molto chiare e maggiori e scivola invece in un cambio di tono completamente scuro. Ho capito. Parlavamo, Vanuccio, del discorso degli Opus Avanti. Questo è un pezzo molto simile a qualcosa che ha fatto Del Monte. Beh sì, e soprattutto anche come stava spiegando Marit, dei cambiamenti di tono erano classico degli Opus Avantra, quindi questo utilizzo continua. Loro prendevano un po' quello che era lo stesso discorso del minimalismo. Infatti Alfredo Tisocco era un bravissimo pianista, è tuttora un bravissimo pianista proprio per la musica contemporanea del Novecento, e riuscivano a trasferire queste e continuavano con delle suite anche piuttosto lunghe con questi cambiamenti di tono, quindi mescolavano quello che era il minimalismo, diciamo, con l'effetto suite. Quindi queste lunghe suite con continue variazioni che venivano a volte lasciate fare alla voce, a volte lasciate fare al pianoforte. E tu hai un po' di minimalismo, quello sì, non so se sei d'accordo. Sì, sì, sì. Giustamente Vannuccio ha messo davanti quel discorso del minimalismo, ma c'è del minimalismo nel disco? Sì. Non moltissimo, ma c'è, esiste. Certo. Se cosa dici? È parte di un quadro, e ogni quadro deve avere determinati colori, li mischi, anche quello è parte del dal vivo, come lo fai questo pezzo? Con la band. Dal vivo questo è cantato senza musica, senza nessuna base, cioè senza da voce e basta. O altrimenti ultimamente si è unito anche un pianista, compositore, artista che si chiama Luigi Maria Mannella, e con cui ho già fatto anche altre collaborazioni con En Velours Noir, e lui mi accompagna col piano anche, quindi ci sono, diciamo, la versione soltanto voce o c'è anche versione voce piano. Benissimo. Sono le 23.05, qua di solito alle 23.05, Marco, tu lo sai, c'è un piccolo giochetto, tu l'hai già presso a poco dato questo giochetto, sviluppato, ma adesso lo sviluppiamo bene, sui 5 dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi dell'avventura, tanto è finito il programma adesso. Oh mio Dio. A tuo piacimento, tu hai citato qualche input, adesso lo sviluppiamo, lo allarghiamo questo input. Ecco, mi sono scavata la fossa da sola. No, assolutamente. 5 dischi da portare, il primo, Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ecco, io ho sempre chiesto agli artisti che vengono qua, perché no Atom Heart Mother? Perché Dark Side per me è l'album più completo, e non che io non mi piaccia Atom Heart Mother, non che non mi piacciano, e loro hanno detto è una schifezza Atom Heart Mother, l'ho sempre detto è una schifezza, no, per me no. Per loro, per loro, no. Per loro, ah vabbè, per loro, Pink Floyd non l'hanno sempre abbiurato, l'hanno rifiutato al massimo. Beh, è il meno impegnato forse, se consideri, ci sono degli album più, sì, per esempio Amagamma è un trip completo. Sì, sono d'accordo con te, però è una bella suite, cioè Atom Heart Mother. Sì. Un sacco però... di... Poi If, chi ha scritto If? Solo loro. La bellezza incredibile di If, 4 minuti e 30 di sublime gioia musicale, secondo me. If è un pezzo... insuperabile. Beh, d'altronde il colpo di genio ci vuole anche di un album intero, cioè, anche voglio dire, non sempre magari tutte le ciambelle, come si dice, riescono col buco, qualche volta il buco è molto ben presente, e in questo caso è vero. È vero, però Darkseid, vabbè, c'è anche, vabbè, a questo punto rivelo un fattore molto segreto. Io, uno dei miei sogni anche da bambina era quello di rifare con i Pink Floyd il solista di The Great Gig in the Sky. È ovvio, come tutte le bambine che cantavano, anch'io ero lì. Che ci sono quelle che sognano di diventare come Britney Spears, io invece sognavo di cantare Great Gig in the Sky. E purtroppo quando morì, appunto, Eric, il mio sogno svanì. Non si è più potuto fare, purtroppo. Certo. Magari sarebbe stato un sogno. Dark Side of the Moon per me è un non so, mi sono ritrovata in tante delle parole che dicono, in tanti dei momenti che hanno espresso. Lo trovo tecnicamente perfetto. Io non cambierei una virgola, non che le cambierei degli altri album, assolutamente. Vabbè, per carità, Pink Floyd sono... Quindi, The Dark Side. Tu, Marco, non ami particolarmente The Dark Side. No, no. Io arrivo fino a quello, forse l'ultimo disco che veramente mi piace di Pink Floyd. Okay, però no. Anch'io sono con te. Atom Heart Mother, secondo me, a me piace molto quello. È arrivato il nostro curatore artistico. Vabbè, ciao, vabbè. Tieni anche conto una cosa. Vi ricordate chi è il tecnico del suono di Dark Side of the Moon? Che è Alan Parsons. Ma infatti, io non volevo dirlo, perché sennò poi chiamiamoli, però i cori del pezzo di prima, se ascoltiamo il primo album di Alan Parsons, i primi lavori, lui lavorava molto con queste voci, con questi cori. Era un po' la sua prerogativa. Parlo dei primi due dischi, certo. Anzi, i primi tre, fino a Pyramide, perché poi anche Alan Parsons, secondo me, ha perso un po' il pallino e ha avuto un po' alleggerito. Esatto, poi il portafoglio allargato dopo, quello è il motivo, forse anche qui. Ma sai, d'altronde effettivamente il primo disco di Alan Parsons, quindi Le Storie di Edgar Allan Poe, sì, non siamo molto lontani poi dal senso dei lavori di Might, di questo lavoro. Esattamente. Che sono effettivamente, sono dei lavori anche nevrotici, se vuoi, no? Perché esplorano quella parte emotivi di noi più oscura, più. Might è riuscita a farlo immaginando una storia, tanto una storia bellissima. Io ho avuto modo di leggere anche il copione teatrale di Might, e sicuramente vi posso assicurare che la musica riflette esattamente quello che c'è scritto a parole nel copione, quindi ecco che molto probabilmente c'è anche questa similitudine da una parte e distanza dall'altra. Ok, The Dark Side, number two? Forse è facile, anche perché quando si sguazza tra i miei artisti preferiti non è che sia facile individuare un album come il migliore. No, quello che vuoi, non proprio migliore, a tuo cosa senti in questo momento 23 e 12 e 11? Birdie di Peter Gabriel. Quello come mai un soundtrack? No, io lo adoro. Adoro il film, tra l'altro con la regia di Alan Parker, che è una cosa divina, e perché quella colonna sonora è un qualcosa che mi trascina letteralmente da qualche altra parte. Non è un album che tu ascolti così tanto per ascoltare un album. Posso chiederti, l'hai sentito il nuovo di Peter Gabriel? L'area di visitazione che ha fatto di pezzi di altri abbastanza sconosciuti, come gli Arcade Fire, ha fatto bellissimo, tra parentesi. Perché la cover di David Bowie? Quella è piaciuta meno di tutti. Io ho avuto le lacrime. Ha sentito quando Heroes, l'ho ascoltata Heroes, l'ho ascoltata la prima volta a Planet Rock e stavo a casa così giocando con il cane. A un certo punto sento l'inizio di questo pezzo, sono rimasta, ho avuto un brivido dietro la schiena, un brivido, ho pianto, mi sono ritrovata alla fine del brano con le lacrime, con il cane in braccio, e ho detto rimettetela per piacere, perché era bellissima. No, io l'ho adorata, non che non mi piacesse quella di David Bowie, assolutamente, però l'ha cantata talmente con un'intenzione. Io sono un'emotiva, sì, guardo la tecnica nella musica, però soprattutto mi lascio trascinare, mi butto, e lui mi ha proprio trascinato in questo quadro, in questa situazione, cosa che Bowie non faceva con quel pezzo, perché Hero è bellissima come l'ha scritta Bowie, come l'ha interpretata, però come l'ha interpretata Gabriel veramente dà i colori. Si l'ha reinventata praticamente. Sì, quindi Gabriel per sempre. No, sì. For President. For President, esattamente. Numero 3, allora. Non è di merito, è solamente per elencare i dischi. Forse facile. Franco Battiato, che poi. Cosa di Battiato? Sulle corde di Ares, per esempio, te le ricordi? Come? Sulle corde di Ares non li conosco, non lo conosci? Poco. Dopo Pollution, dopo Fetus, tu lo conosci? Poco. Sulle corde di Ares? Sì, è un disco epocale, secondo me, difficile, difficilissimo, molto difficile, molto, difficile, molto complesso. A Vanuccio non sfugge nulla. Molto complesso. Studiato bene. Molto e anche complesso. Più memoria di me, io sono... Anche difficile da trovarsi proprio in vinile, era una rarità assoluta. Poi, per un certo sì, modo. Beh, era molto complicato. È molto... Beh, un disco molto complicato, molto d'avanguardia, molto particolarissimo. Devo approfondire, vedi? Beh, molto probabilmente, forse Maite giustamente ricorda più un Battiato relativamente più leggero, perché comunque le radici ci sono, forse da, non dico neanche la voce del padrone, no. forse qualcosina prima, Patriots, sì. Ma tu giustamente ti parlavi di Mademoiselle Gladiator, quello è un disco, l'Egitto prima delle sabbie. Esatto, ecco. L'Egitto prima delle sabbie, quello è un disco da facciata da 20 minuti da una parte e facciata da 20 minuti dall'altra, un unico suono, Io l'ho visto tanti anni fa, eravamo in 100 o 150, quindi pochissimi, lui aveva una pianola, era vestito, aveva un tappeto rosso ed era seduto così alla tibetana, non so, e suonava Messier le Gladiateur. Su 100 persone, 50 avevano preso il sonno. Perché non erano abituati. Perché gli altri 50 erano già usciti. Esattamente, non erano abituati. In che anno? Di che anno parliamo? Il Gladiator, che anno è, Marco, ti ricordi? 76, penso. 76, esattamente. Quindi un disco difficilissimo. Ma io ero cuccioletto. L'hanno buttato, dico una cosa. Ero cuccioletto, purtroppo. No, no. Non dico che l'hanno buttato fuori dalla bla bla, ma quasi. Perché praticamente non ha venduto assolutamente nulla. No, immagino proprio. Assolutamente nulla, però era molto avanti. Stockhausen, lui ha vinto il premio Stockhausen. Io sarei stata in estasi totale. Era incredibile. Quindi Battiato, un Battiato di Patriots, tu hanno. Facciamo quello. Non ho un album preferito. Un Battiato. Ce l'ho un album preferito, perché ce ne sono tantissimi. Troppi che mi coinvolgono. Quindi Battiato, in genere. Four, il quarto. Però qui adesso finiamo nello stesso modo, perché direi Jethro Tull, però non... Aqualung, Figures of Brick, cosa scegli? Forse Aqualung, forse. Aqualung, forse, però non è l'unico. Non so. Vabbè, diciamo Aqualung. Aqualung, secondo me, ha... È quello un po' più conosciuto. Sì, è più conosciuto e anche ha superato determinati schemi. Poi ha portato avanti un discorso di grande successo, immenso successo commerciale. Ma non è quello che conta nei Jethro, qual è un disco bello tutto. Non c'è niente di negativo. Tecnicamente è una... Perfetto, perfetto. Nonostante che lui sia stato un egemone, nonostante che abbia mandato via tutti quanti, meno che l'unica persona che è rimasta nella band, dopo lui ha cambiato continuamente, non era mai d'accordo, però ha fatto acqua. Anche. Sì, però c'è una cosa da... Dimmi. Secondo me che è degna di essere menzionata. Il fatto che come persona io non credo che sia un despota. Musicalmente dicono di sì. Musicalmente devi esserlo, perché nel momento in cui hai la creazione, l'arte, è l'arte che ti segue. E fino a quando non la crei esattamente come senti che debba essere, in quel momento non è il tuo amico che sta suonando con te. È una persona che sta contribuendo a un... Non voglio dire progetto, perché progetto è una parola restrittiva. È un qualcosa di talmente sacro, è vero. È una parte della tua anima che tu stai mettendo nella musica. Quindi è ovvio che ti incavoli anche abbastanza e c'è un po' di scontro. E a proposito di questo, per come si dice, proteggere la creatura Jethro Tull, c'è un episodio, forse Vanuccio lo sa, quando sono venuti in Italia, tanti anni, vengono sempre in Italia, ma c'è stato un periodo che sono venuti in Italia, come spalla avevano i Gentle Giant. Allora, il pubblico italiano ha fischiato i Jethro Tull e ha amato i Gentle Giant. Cosa ha fatto Ian Anderson? Ha mandato via come spalla i Gentle Giant. Perché gli hanno letteralmente rubato il palco. A parte che io non riesco a comprendere una cosa del genere. Eppure con tutto fatto, rispetto per i Gentle Giant. Perché i Gentle Giant a quell'epoca erano musicalmente... erano gli strumentisti straordinari. Probabilmente avevano oscurato i Jethro Tull. Ha fatto così Anderson, ha mandato via i Gentle Giants, c'è poco da fare. È un fatto storico questo, musicalmente parlato. Cosa vuoi, un minimo di gelosia molto probabilmente succede sempre fra artisti, non è facile. Dipende poi quanto costruttiva diventa, molto probabilmente i Jethro Tull avranno imparato qualcosa dalla lezione Gentle Giant e finalmente i Gentle Giant avranno venduto qualche disco in più. Esattamente. In Italia, ma tutti esattamente, non tutto il male viene per loro. Soprattutto in Italia, perché sono molto amati in Italia, in chitarra un po' meno, ma in Italia moltissimo amati i Gentle Giant. A quell'intetteista, un disco che è andato subito in classifica. Ti ricordi, Marco, a quell'intetteista di Gentle? Ero piccolino anche io. Ero molto piccolo. Il più vecchio sono io qua dentro. C'è poco da fare. Terminiamo allora i 5 dischi, l'ultimo. Quinto. Che domandone. No, sono domande facili. No, non lo so, perché io vado un po' anche a periodi, quindi... Beh, certo, come vuoi, quel periodo che vuoi. E poi ritorniamo a un pezzo del tuo disco, chiaramente. Non lo so, ce ne sono tanti. Qual è che mi piace tanto? Mi piace tanto, tanto, tanto, tanto. Anche di recente. Beh, a sto punto, ecco, faccio contento... Marco. Sisters of Mercy, Floodland. Cosa dici? A me piace Floodland. Condivido. Ipnotico. È un po' sottovalutato rispetto ad altri album dei Sisters, però ha un... ci sono dei brani che veramente mi prendono. Per cui direi Floodland. Bene. Sei d'accordo? No? Sei contento? Sono d'accordissimo. Adesso posso andare a casa. Sì, esatto. Dopo mezzanotte per andare a casa sicuramente, non prima. Ok, benissimo. Cosa abbiamo scelto come scaletta, Marco, adesso? Come pezzo abbiamo scelto Something Wrong. Che è molto bello. Ne parliamo dopo, lo sentiamo adesso. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. time. You've got me ready. A cold fill my heart. It's poison. I think there's something wrong. Rock Wave. Ok, ci siamo. Mentre il pezzo andava, c'erano tanti, tanti riferimenti. Qualcuno ha citato i Bauhaus e Peter Murphy. Tu non sei molto d'accordo, vero? Anche se Marco diceva sì all'inizio. Marco è un grosso stimatore di Bauhaus. Primi due dischi, Marco, qualcosina, qualche movenza, qualche input. Sì, i primi perché erano quelli un po' più cupi per quanto riguarda i Bauhaus, quelli un po' più misteriosi come personaggi. Poi è un po' diverso. Sì, poi è un po' diverso, sì. Quindi comunque, Peter Murphy. Murphy più ispirato. Più ispirato. Sei d'accordo te, secondo? No. A volerci pensare, forse. Forse. Però non intenzionalmente. Non così. Anche se mi adoro, non Bauhaus. Assolutamente, sì. Adesso mi citi la frase quel giornalista inglese no, interessante anche, Mick Mercer esatto. Lui ha scritto sulla sua recensione di Five Monsters che gli ricorda Kate Bush su Marte, perché è la cosa un po' più curiosa che abbia mai detto. È bello così, sì, è simpatico. Kate Bush on Mars, era scritto grosso così, ho detto vabbè. Ma okay. Una Kate Bush all'inizio di carriera, forse? Non lo so, non ha specificato. Però ha specificato su Marte. Cosa dici, te, Vannuccio? Ah, sì, come si diceva prima, cosa vuoi? Tutte queste definizioni valgono nella testa di chi le ha scritte. È più difficile poi valutare chi legge se è vero. Per esempio, giustamente si parlavano dei Bauhaus. Sì, il giro di basso sicuramente ricorda i Bauhaus di Lagartija Nick, di forse anche di She's in Parties, anche sì, se era l'ultimo periodo, è no? Vero. Cosa vuoi? È vero, Kate Bush, perché no? Il cantato ha una sua struttura che sicuramente ricorda Kate Bush. Su Marte, beh, ci sono abbastanza rumori di sottofondo per giustificarne la cosa, no? Per cui, no, forse secondo me il suolo marziano era per... in questo caso uso impropriamente l'aggettivo secco. È una canzone molto secca, cioè hai sto basso martellante, questa voce che effettivamente è una stilettata, comunque continua, ecco, forse è l'arido buono del suolo marziano che in qualche maniera emerge da questo brano. E se io ti sparo, forse ti ho sparato, forse anche inconsciamente, un po' i cosmici tedeschi. Credo, no. Niente, proprio, no. Non ho qualche addentellato, leggero. Forse per pura coincidenza. Per pura coincidenza. Non riconosci, riconosci i cosmici tedeschi? Molto poco. Tangerine Dream, sì. Però non credo che ci siano, almeno non intenzionalmente. No. Poi, secondo torniamo me al discorso delle piramidi. Ma Yasha la Templa, sì, no, però. Tangerine Dream, no. Ma Yasha la Templa... determinati discorsi di musica un po' particolare pure no, ma a sto punto qui è giusto il discorso, sì, uno la sua esperienza musicale, quindi alla fine viene fuori quello che c'è dentro uno, chiaramente. Poi secondo me il discorso di leggere le recensioni, no, dove trovi, parlo per me stesso, quando leggi una recensione su un disco deve stare molto attento il critico musicale, perché il mettere dei riferimenti vicino all'artista ovviamente ti spinge a fare dei paragoni. Quindi adesso, rispetto a tanti anni fa, è vero, uno ha più facilità a ascoltare il pezzo perché tramite internet, però in realtà qual è la cosa che ti stimola a comprare o meno un disco? Se non hai la fortuna di ascoltare Blu Radio Veneto e di sentirlo, legge la recensione. Quindi certo. Il fatto, quello di mettere a fianco al disco il nome dell'artista che richiama è buono, ma può essere pericoloso, perché a me è successo, vado a comprarmi il disco convinto di sentire quell'artista perché mi piace, poi in realtà viene fuori tutta un'altra cosa, quindi... è molto delicata la cosa. Io sono molto scettico quando leggo recensioni o troppo negative o troppo positive, perché significa che chi l'ha scritta ci ha messo troppo del suo. chi scrive la recensione, secondo me, deve un po', deve essere capace a astrarsi un po' da quello che prova e descrivere proprio in maniera neutrale quello che è il disco. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, Maurizio, a mettere queste etichette, perché sennò chi ascolta la radio non capisce più niente. Perché questo alla fine, è vero. Alla fine domani vai qua al 23 che vendono di tutto e compra tutti i dischi degli anni 70-80. È verissimo questo, sì, bisogna stare attenti su questo discorso. Non qua. Potresti trovarmi più d'accordo. Bene. Ti ringrazio. No, no, beh, è sempre difficile, giustamente, Mauro dice, se ti fanno l'accostamento a qualcuno che già conosci, sì. Tu ti fai un'idea, perché ovviamente hai un paragone, dopo compri il disco e siamo da tutt'altra parte. Il problema è sempre quello, poi... Tutto ormai abbiamo tutto sommato 50 anni di rock alle spalle, ragazzi. Non è poco. L'abbiamo ascoltato in tutte le maniere, abbiamo ascoltato di tutto, e sicuramente per questo dico, il talento al giorno d'oggi sta soprattutto nella capacità di filtrare cosa abbiamo ascoltato, di ridare in qualche modo nuova vita. Ecco, ascoltavamo prima la famosa intervista a Ivan Cattaneo, giustamente lui lo fa nella sua maniera, ma non fa né più nemmeno quello che più o meno provo aver fatto, ma detto tanti altri. Si ascolta, si filtra e diamo nuova vita a quello che bene o male abbiamo dentro. Sì, è vero, hai ragione. Perché, per esempio, Maurizio, tu giustamente parlavi dei cosmici, della musica cosmica tedesca. Verissimo, d'altronde si stanno usando delle tastiere che comunque ricordano il suono addirittura di Popol Vuh, direi. Esattamente, sì. Però sì, per forza, c'erano già 30 anni fa e le tastiere, e in ogni caso... Le note sono quelle, ragazzi. Ma ci sono i quarti di tono. Che però con non cui sentiamo si può tanto. Più, no, ci stanno. No, che ci siano non c'è dubbio. Il problema è che le nostre orecchie non sono più abituate. Lo so. Infatti quelli che prima ha chiamato piccole stonature non sono quarti di tono. Io mi ci diverto da pazzi. Perché mandano ai matti completamente le persone con cui vai a lavorare insieme. Ah beh sì, a livello lavoro. Beh, mi ricordo che nel Medioevo l'intervallo... Ritorniamo a quel di prima, ho fatto un piccolo errore prima nel descrivere il do maggiore, ma non importa. L'intervallo di quinta non era ammesso, perché stonava. Ma anche i tritoni. Esatto. Però vabbè, quello è un altro discorso. Sì. Problema, anche per la difficoltà di intonazione. Un problema che poteva... delle orecchie nostre. Per cui ce n'è insomma di materiale con cui sguazzare allegramente. Decisamente. Sì, bella questo allargare l'ambito, perché la gente che ascolta può capire la difficoltà, la pesantezza, il pathos di fare un pezzo. Non è mica semplice, vero? Non è così. No, assolutamente. C'è fatica. La fatica non sta nel creare un pezzo, la fatica sta nel tradurlo, perché l'idea ti viene... facilmente in testa, perché sei ispirato, ecco, nel mio caso ho scritto il racconto, ho visto nella mia mente queste scene, le ho rappresentate in musica, e nel tradurlo in musica, e allora nel momento in cui vai a arrangiare un pezzo comincia a prendere forma, e lì diventa un pochino più difficile la cosa. Ma nasce dalla tastiera il pezzo tuo e poi si sviluppa in altre direzioni, ma nasce soprattutto dalla tastiera, dal piano? No, non necessariamente. No, a volte nasce magari, nascono le parole prima e poi piano piano comincia a tirare fuori qualcosa, tipo di solito prima il basso. Sarà che forse perché ho iniziato con il basso, non lo so. Suonavi il basso te? Sì, ho iniziato con il basso. È come Caterina Caselli praticamente. Visto? Suonava il basso anche lei, eh? Sì, e come no? Piccolina come me, tra l'altro, anche lei. Era trasgressiva all'epoca, una ragazza che suonava il basso negli anni 60, ragazzi, si contavano le dita di una mano. Ma le donne sono come... si possono paragonare... tra le varie cose anche i cagnolini, che più sono piccoli più sono vivaci, diciamo. Abbiamo capito. Non avevo dovuto aspettare fine anni 70 per avere Tina Weymouth dei Talking Heads. Un altro esempio straordinario. Sì, ma il mondo è pieno di nanette che sono abbastanza, diciamo, ci difendiamo bene. Quindi cominci dal basso, ho detto. Di solito abbasso la voce, quando anche do i provini per esempio agli altri musicisti, tiro fuori una linea molto basilare di batteria e con il basso e la voce. E i provini agli altri musicisti, che input dai agli altri musicisti? E do appunto questa base un po' scarna, ma... e spiego il contenuto ovviamente. C'è la discussione fra di voi poi, oppure tu hai le direttive, è tua e poi loro gestiscono la direttiva? Di solito sì, più la seconda, do un pochino una direttiva e lascio... Lo fai come gli Anderson allora? No, non sono despota, no, anche perché No, anche perché tra l'altro sono musicisti di cui mi fido totalmente, c'è proprio tutto un tipo di rapporto anche di amicizia, di stima reciproca, per cui vado veramente tranquilla. Anche con Diego, quando gli ho dato i brani appunto da sistemare per il live, ero assolutamente tranquilla, nonostante fosse un esperimento completamente coraggioso, completamente pazzo, io ero sicura che avrebbe fatto un gran lavoro, quindi ho dormito tranquillamente su un cuscino di piume, senza paure, senza niente, no. Quindi lascio che anche loro mettano qualcosa di personale, un'interpretazione. Quindi che pezzo, che brani esegui dal vivo? Questo nuovo disco oppure anche i dischi precedenti? Di dischi precedenti soltanto Sequoia, che viene dal secondo album, che è What a Hollow Shows Through. Bloody Mask adesso questo è il quarto. Il quarto disco. È stato pubblicato anche adesso qui da noi o solo in Inghilterra questo disco? No, è ovunque. Ovunque, si trova comunque praticamente. Il quarto disco praticamente, anche sì. La tua discografia come questa, Bloody Mask, e sì, come è questo progetto praticamente. Esattamente. Quindi prettamente da Five Monsters. Esattamente. Quindi il disco Five Monsters lo presenterai quasi tutto dal vivo oppure... Scusa, sai, poi è solo dall'ultimo album. Quindi Five Monsters tutto quanto dal vivo? No. Però, diciamo che adesso, ecco, domani registreremo alcuni brani di Five Monsters, ma non tutto l'album. L'ideale è quello di creare degli spettacoli che comprendano concerto e parti recitate dal vivo. Quindi un reading, una specie di reading. Insomma. Anche sì, molto recitato. Abbiamo tra l'altro degli attori molto molto bravi che bisogna assolutamente menzionare, che sono Anthony Townsend e David Bickerstaff. Che David Bickerstaff, tra l'altro, l'abbiamo visto anche in Doctor Who in Inghilterra. E sono degli attori straordinari, sia come persone che come artisti. E Alan Olso, che hanno fatto le tre parti dei tre mostri che appaiono nella storia. Tu hai citato anche un video prima. Sì, The Cell. È uscito da poco, è stato su YouTube da circa una settimana. C'è stato un qualcosa come 1400 visualizzazioni in una settimana, ero contentissima quando l'ho saputo. E sì, è un video che abbiamo girato negli ultimi mesi, per il quale abbiamo avuto un permesso straordinario di girare all'interno del cerchio di pietre di Stonehenge. Ho capito. Perché non danno mai permessi di fare video musicali, però io ho insistito un pochino, ho detto ma in fin dei conti è un brano che è molto rispettoso nei confronti di un luogo sacro come Stonehenge, e loro ci hanno dato il permesso di farlo dopo che hanno ascoltato la traccia. Inizialmente dissero no, un no secco, non lo facciamo, però dopo un po' hanno detto vabbè, dacci la traccia, non ti promettiamo nulla. Ho mandato il testo, ho mandato la traccia, l'hanno ascoltato, gli è piaciuto e ci hanno detto di sì. Quindi siamo andati lì, abbiamo girato un'ora dentro al cerchio di pietre e sono un qualcosa di stupendo che irripetibile. Ogni volta che vedo il video mi vengono i brividi dietro la schiena, proprio il sogno. Benissimo, sono le 23 e 36, quasi 35, 35 sono circa. 35 appena passate. Appena passate, Rock Wave da vivo, chiaramente stiamo parlando piacevolmente con... Metelio. E mi ricordo mai il tuo nome di questa tua nuova produzione. Andiamo un altro pezzo, Marco, cosa dici? Ma se mi lasci carta bianca, sì. Io proporrei, se vuoi, Sweet Memories. È bellissimo, bellissimo, veramente una grande. Qualcuno ha scritto una grandeur, io ho scritto è una cosa quasi sinfonica, ma ne parliamo assieme più tardi, ok? Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. with me. And then she chocolate biscuits smiling. You were holding me again. And when I was a child, I recognized you in a million bones. The cemetery that day, I see you at the bus again. Radio Veneto Rock. Eh sì, Marco, una specie di proprio sperimentalismo quasi puro, ma puro possiamo dire, non quasi, proprio puro, almeno alla fase finale è proprio sperimentalismo puro. Poi parliamo anche con Vannuccio, ma prima con una tua descrizione. Vannuccio è pronto a dire la sua adesso, vedo. Sta scalpitando. Sta scalpitando. Beh, sì. Sì, anche perché, vabbè, questo è un momento un po' drammatico della storia in cui questa persona, questo condannato, ricorda la sua famiglia, quindi ha questi momenti così di... Infatti si intitola Dolci Ricordi. E mi sono ispirata a mio nonno, perché era un ricordo che ho di lui, e, che era una persona molto speciale per me. E soprattutto la fine l'ho dovuta riregistrare più volte, perché ogni volta avevo le lacrime, mi veniva da piangere, talmente mi toccava questa cosa. E quindi sì, una sperimentazione, mi sono lasciata andare emotivamente, senza pensare adesso devo comporre il brano. Io mi sono buttata letteralmente. In qualche Kate Bush su Marte, può darsi che il critico inglese non abbia visto tanto distante, cosa dici? Ma sai, io resto sempre dell'idea, e forse mi ripeterò per l'ennesima volta, tutto il disco di Maite è sperimentale. Cioè, vogliamo trovarci qualsiasi similitudine, qualsiasi radice, è comunque un disco sperimentale, resta un disco fuori dagli schemi, certo, se vogliamo, questo è chiaro. vuoi perché è legato a dei racconti che Maet ha scritto, vuoi perché è legato comunque a una struttura teatrale, ha una sua valenza al di là di alcuni, è un po' come l'opera lirica, sai, ai recitativi, no? Togliendo qualcuno dei recitativi ti resta comunque un bellissimo disco di canzoni sperimentali, quindi o ti piace o lo butti via, non c'è verso. In questo caso non hai la via di mezzo, mi piace perché c'è questo, non mi piace perché c'è quest'altro, o ti piace com'è oppure no, non te ne fai nulla, ecco, non diciamo buttiamo via, ma non te ne fai nulla, ecco. E sperimentare anche, però i suoni non sono un pugno nello stomaco. Qualcuno sì, ma qualcuno no. Cioè, posso interpretarla così, Metelia? Allarghe, c'è una melodia nel sottofondo, nonostante tutto. Non so se sei d'accordo. Sì, è molto melodica. Strozzata, in alcuni momenti posso essere d'accordo, sì, con te, ma melodia esiste, c'è. Sì. Che la giri, la percuoti, la allarghi, la restringi, però è quella la melodia. Sì, per me è uno sperimentale decisamente, però è... ha una forte componente melodica, non è noise o qualcosa del genere. Noise, sì. Ecco. Assolutamente, tutto melodico con delle sperimentazioni. Ci sono dei momenti anche un pochino più noise, come per esempio On The Way, che c'è, sì, questo piano martellato, però non... il filo conduttore è tutto melodico. Ma non c'è rumore? Quello? No. No, assolutamente. Ma c'è rumore nella tua musica? Dal vivo, rumore c'è, esiste? Con la band? No. Non intenzionalmente, no. No, anche perché io non sono una fanatica del noise, non mi... No, io sono più per la melodia, anche una nota sola, anche i brani come per esempio possono essere Five Monsters, che è quasi, sì, tutto monotonico, è quasi, sì, tutto cantato su una nota, però deve esserci una melodia, non sono per il rumore, per il noise, no. Quindi l'idea parte sempre dalla fase melodica, poi si sviluppa, si allarga, come abbiamo detto, sì, può avere delle ispirazioni, può avere degli intrecci diversi, però parte sempre da là. Sì, beh, per questo, me sì. Sai, questo dipende secondo me per due motivi. Lei ovviamente ha studiato canto lirico. Canto lirico, esatto. Da una parte, dall'altra essendo un bassista conosce, ecco, le melodie. Esatto, ecco. Sei un bassista, è quello importante. Ormai è, boom, sì, sei marchiato. Sai, no, non sembra, no, beh, sai, sono stato abbastanza spesso dietro un mixer di uno studio di recitazione a produrre qualcun altro per poi capire se vogliamo. Le sottigliezze delle cose. E la prima cosa che un produttore capisce è la forma mentale che ha l'artista che ha davanti. Perché tu devi in qualche maniera prendere il suo diamante e sgrezzarlo. Quindi cosa succede? Nel caso di Maet sicuramente lei avrà una forma mentale legata alla melodia. Vuoi perché bassista, vuoi perché cantante lirica. Quindi, come giustamente diceva, anche la composizione, ecco, che diventa fatta su una linea di basso, diventa fatta su una linea. Lei intreccia la voce con il basso e da lì nascono poi le armonie, nascono tutte le varie strutture musicali. Semmai l'interessante è quanto brava è lei a spiegare agli altri dove vuole arrivare. Il discorso che si faceva prima, che non è mai semplice dire a qualcuno guarda che io ho intenzione di fare questo per questo brano. Lei è molto brava perché poi giustamente i musicisti sono anche amici, quindi la comprendono bene, non sono dei turnisti presi dove gli dici questo è lo spartito tesoro, copiamelo come è scritto. È tutt'altra cosa e la senti, insomma, senti che il sentimento è in qualche maniera esternato a chi ti aiuta. Ma come tu sei un produttore, come si mette davanti un produttore alla musica di Metelli? Beh, sai, allora, secondo me potrebbero esserci due posizioni, però ti dico solo la mia. Ok. Beh, non parlo per gli altri, ognuno può un po' decidere come fare, sai. Nel suo caso potrebbe essere quasi reverenziale, perché non è una musica facile, assolutamente. No, assolutamente, quello no. Quindi non hai la canzoncina pop dove tu sai che hai degli standard da usare, classico, cos'è? Verso, ritornello, ponte, ritornello, chiusura. Non hai queste cose, quindi devi comunque, pur restando all'interno della canzone, perché Maet fa delle canzoni, non fa lo sperimentale, fa delle canzoni con un certo tipo di arrangiamento, devi in qualche maniera seguire il suo metodo, quindi devi pensarla minuto dopo minuto, cosa succederà dopo, proviamo. È proprio una musica da tentativi, secondo me, quella di Maet, almeno dal punto di vista del produttore. Dopo, giustamente, chi scrive il brano ha tutt'altra idea, molto probabilmente. Ne pensi te? Beh, sì, l'imprevedibilità è un po' una caratteristica mia anche come persona, quindi anche musicalmente si riflette. Poi comunque la cosa bella che ha Vannuccio è che, a parte che non gli sfugge nulla, come dicevo, ma poi lui non ascolta solo con le orecchie, ma ascolta anche col cuore. E la musica mia è molto emotiva, per cui non va soltanto ascoltata con le orecchie, nel senso dire mi piace o non mi piace, è anche una questione di essere coinvolti. Ecco, una cosa mi ricorda, non, cioè, musicalmente, però ho qualche aggancio, cioè, se, a larghi toni, la Petrina, una ragazza di Padova, faceva una musica abbastanza sperimentale con il pianoforte. La sedia. Cioè, anche lei non, aveva una produzione, sì, però il produttore lasciava come lasciava ad andare che l'artista descrivesse lei il suo percorso, non emetteva nessun paletto. E Petrina era una ragazza di Padova che suonava il pianoforte, un pianoforte sperimentale. Cioè non sempre il solito modo di suonare il pianoforte, cioè allargava, come te allarghi con le tastiere, giochi, trovi determinati connubi, determinati punti di riferimento, anche lei allargava. E mi viene in mente il parallelismo con la Petrina, questa ragazza di Padova. E vedi, adesso ancora mi incuriosisci, perché non conoscendola adesso io devo anche se musicalmente ascoltare. Siete in sponde differenti, ma però cosa, dici ma forse non, ma è l'idea che conta. Portare avanti un discorso, e lei come te portate avanti un certo discorso, non tradizionale tra virgolette. Io la penso così. Cioè, beh, ma quello è un po' quello che succede a tutti gli artisti emotivi. Ecco, sì. Perché quando componi non per fare la canzone per vendere, per esempio, che sei lì soltanto che calcoli, appunto, come diceva lui, ritornello, cantato, ponte, eccetera. Quando crei qualcosa perché stai dicendo qualcosa di da dentro. Quindi Roger Waters, Roger Waters ha venduto tanto, per questo non vuol dire assolutamente. Ha venduto tanto, però all'inizio quando scrisse The Wall nessuno gli aveva creduto, tutti pensavano che fosse un'immondizia, eppure guarda cosa ha fatto, tuttora vende 23 milioni di copie all'epoca. All'epoca. Poi... Esatto, eppure dicevano ma è un'immondizia perché è un pianto, sei patetico, gli avevano detto cose assurde, che io dico ma con cosa ascoltate la musica? Non... Io ascoltandolo invece sento veramente un uomo che ha sofferto, un uomo che ha fatto la lotta con se stesso fino appunto a buttare giù il muro, ed è quello che poi anche milioni di altre persone hanno capito. Invece all'inizio pensavano tutti che fosse un qualcosa con veramente poco valore, che non avrebbe mai avuto un seguito. Certo, allora sono le 23.49, quasi 23.50, facciamo quel pezzo di Satie, l'impressionismo che abbiamo scelto, Lucille mi pare che sia al pianoforte. Lucilla, sì, un pezzo impressionista, qualcuno l'ha scritto, è giusto secondo me, ricorda Satie, non so se sei d'accordo. Forse. Pianoforte, e poi concludiamo, ma abbiamo ancora un altro pezzo mi pare, intanto sentiamo questo. Allora. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Enjoy now, Hindu. dream time over. Get up. Ok, ci siamo Marco, abbiamo finito quasi, abbiamo fatto 2 ore con Metelli, abbiamo parlato della sua musica, cosa meravigliosa, con Vannuccio che ci ha dato una mano, con Nino che ha predisposto tutto quanto e Alberto Prisco che è il nostro curatore ufficiale. Metelli, questi passi finali, crei tutto anche i passi finali, bellissimo. Beh sì, abbiamo fatto tutto a 360 gradi su questi 5 mostri, sono stati vissuti, recitati, assimilati, creati, estrapolati, tutto. Quindi ci sono i passi, questa è la guardia carceraria che lascia il tipo, il condannato che è lì nella cella, lui lo sveglia perché lui sta sognando questa Lucilla, questa donna di cui lui era innamorato, e lo sveglia battendo con il manganello contro le sbarre e gli dice andiamo Byron, lo prende in giro ovviamente, lo chiama Byron come Lord Byron, i sogni sono finiti, alzati. E quindi lui brutalmente lo sveglia dai sogni, infatti è il motivo per cui le tastiere smettono di suonare nel momento in cui bussa contro, batte contro le sbarre. Quindi sentono i passi che lui si allontana, cattivo con questo manganello che gioca contro le sbarre, è un po' un cattivone. Benissimo, ricordiamo che domani c'è una registrazione, fai un piccolo show, un showcase, un piccolo concerto. Sì, con appunto Diego Banchero, Roberto e Fernando, quindi saremo lì tutti e quattro insieme a fare questa registrazione. Dopodiché, più in là, adesso finita la promozione, appunto la promozione anche del libro The Five Monsters, l'album. È uscito adesso il libro, sì. Da pochissimo, lo trovate tutto su, non so se lo posso dire. Sì, casa editrice, sì. Su IAP, trattino, arts. Puoi trovare su internet praticamente. Sì, arts.com, è lì è il punto più principale, diciamo, per trovarlo. Però poi, insomma, si trova anche in alcuni negozi, dipende da chi ce l'ha e chi non ce l'ha, insomma, bisogna vedere. E quindi sì, è reperibile nel sito e ricordiamo il tuo sito, ricordiamolo appunto IAP, ok, sì, trattinoarts.com. e poi vabbè, per chi volesse dare un'occhiatina a YouTube c'è comunque The SEO, se tu scrivi Blooding Mask e poi scrivi The SEO puoi vedere anche il nuovo video che abbiamo appena realizzato con appunto all'interno del cerchio di Stonehenge. Benissimo. E poi ci saranno questi concerti in un prossimo futuro, quando le cose saranno sistemate per la promozione. Cioè, questo, ricordiamo, è il quarto album tuo progetto Bloody Mask. Bloody Mask, sì. E concludiamo con la title track, i 5 mostri. Mm. Una volta si chiamava title track, si chiama tuttora title track. Sì. Perfetto. Esatto, bravo. Si chiama tuttora title track. Cosa dici, Marco? No. Dico che il messaggio che ho raccolto io, che sono da sempre, lo dico, che è importantissimo, la gente deve cominciare ad ascoltare la musica col cuore. Questa secondo me è una cosa, hai detto una cosa bellissima, e la differenza la fa proprio questo, cioè non ascoltare il disco solo per ascoltarlo, ma bisogna proprio sentirlo dentro, quindi è una bella cosa e spero che la maggior parte della gente possibile continui a fare, faccia e continui o cominci a fare così per ascoltare la musica. Ce n'è in giro, ce n'è. Cioè, sia chi fa la musica col cuore sia chi no, però io ho trovato molto interessante la puntata di questa sera, perché a parte che sentire parlare di esperti di musica come voi è sempre interessante, ma capire, e ritorno, per uno come me che ascolta musica da profano, capire le motivazioni, il come viene scritto, come nasce un disco è molto importante, cose che magari anche se le scrivono sulle copertine non si riescono a capire. Sentirlo dalla viva voce dell'artista ti fa apprezzare ancora di più il lavoro, perché non è solo il fatto di ascoltare la musica, è vero il ritornello, qui senti che c'è proprio una storia sotto, quindi è ancora più, bisognerebbe, per ogni disco bisognerebbe riuscire ad avere questo, però è impossibile perché bisogna parlare con tutti quanti gli artisti, quindi è un piacere, è stato veramente un piacere per me e credo anche per chi abbia ascoltato il programma, perché apprezzerà ancora di più la tua musica dopo quello che ha ascoltato questa sera. È un piacere anche mio, comunque, grazie. Il piacere nostro, il Rock Wave non ha confini, giustamente, è giusto che sia così. Rock Wave ci sarà anche domani sera, ci sarà, vero Alberto? Come si chiama? Mi ricordo più. sì, beh, l'ex leader di Tempi Duri, dai. Esattamente, eccolo qua. Un musicista molto, molto interessante, molto valido, ecco, me lo scrivono. Carlo Facchini. È meglio, sì. grazie Alberto. Sono un po' grogi. Dopo due o tre orette. Sì, sono passati i sottotitoli col nome del. Ah, perfetto. Ok. Grazie a Metelia, grazie a Vannuccio che ha dato una mano fondamentale, grazie a Nino che ha partecipato, grazie a Alberto Prisco che è il curatore della nostra redazione. E grazie a Marco, senza di lui non si sarebbe fatto niente. No, stasera. Si faceva lo stesso. Grazie no. Anche a te, Maurizio. E anche se mi hai bocciato il pezzo che volevo mettere su. Lo so. Però lo metterò su venerdì sera. Benissimo, lo metterai su venerdì sera al tuo programma. Ci sentiamo domani con l'artista dei tempi duri. Okay. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. È mezzanotte.